questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Beh, il momento della gioia, del relax, la terza ora del sabato del villaggio, quindi l'aspetti, io l'aspetti per tutta la settimana. Ma l'aspetto, sì, proprio come cantava Ambra, no? Arriva Ambra. Lunedì e poi il martedì, cioè, quanto tempo mancava al sabato? Mi hai nominato Ambra. Lo so, ti piace. Allora, siamo qui a RadioTube dove raccontiamo l'imperdibile, il perdibilissimo della settimana. Perché l'ho lasciato scritto delle scalette, non lo so. Sembra. Sì, ogni tanto lo lascio noi scritto. Noi abbiamo degli account di Twitter, lo sai, che si chiamano et Marta Cagnola et di Bellasio. Sì. Noi abbiamo anche un hashtag RadioTube. Sì. Tu ne hai anche un altro, ISDV, però potresti anche considerarmi mezzo socio anche di ISDV. Dai, facciamo ai mezzi. Allora, siccome tu sei romanista, io vorrei subito sapere da te. Tu sei romanista, sì, si può dire, no? Sì, non si è può. Una no, cosa no, grave. No. Non ce la par condicio. Non ce la par condicio, le indicazioni di voto, no? Anche se a Roma si vota, però si può dire. Però che ci si sono vota. Tanti candidati di ogni. Ecco. Non è che si vota per una squadra. Ma nel vero bipolarismo, bipartitismo romano, tu con chi stai? Con Spalletti o con Totti? Perché Totti non si discute, però io sono un efficientista, però, esatto, però io essendo un po' efficientista, Brianzola, quindi via, non serve più, non funziona più tanto bene. Non via. È vero, però sono molto combattuta. Sei molto combattuta. Sono combattuta. Sai anche chi hanno vissuto in maniera, non lo so, ti faccio finta di essere io all'origine di questo video che hai trovato tu. No, che invece tu. Ci ha segnalato Cristian Goldoni. Esatto, perché, che peraltro è laziale, per cui chissà con chi sta. Totti o Spalletti? Fai, allora, se è Totti fai due. Così come no. Se è Spalletti fai così come sì con la testa. Nessuno dei due non ce la può fare. Ha fatto tutti e due i movimenti. Il laziale non riesce, non ce la fa. Allora, secondo me il posto più bello per vedere una partita della Roma è vederla con Venditti e con Verdone. Ma certo, metti che Venditti canti l'inno in diretta, no? Ma che meraviglia, cioè, ma che meraviglia. L'anno prossimo potranno vederla Venditti, Verdone e Totti, perché no, siccome vabbè, sarà a casa, no. Come l'hanno vista loro? Come l'hanno hanno vista? Reagito? Vediamolo. Ovviamente se qualcuno fosse stato su Marte questa settimana, Francesco Totti è stato il protagonista del trionfo dell'Olimpico. Infatti che ha risolto in due minuti una partita. Infatti io che stavo perdendo sull'altro versante, e siccome noi siamo dietro dalla Roma di poco, dicevo beh però almeno la Roma perde. Io stavo perdendo, dico beh però almeno la Roma perde, controlli i tweet, beh però almeno la Roma perde. Beh però la Roma sta vincendo improvvisamente. Vince. Invece senti che beh però hanno fatto Venditti e Verdone. Oddio mio, Dio c'è, ed è Totti in questo momento, scusateci tanto ma è una cosa meravigliosa. Spalletti della merda! No, beh no, non si dice in diretta queste parole. Il capitano è uno solo ed è Francesco Totti. Vedi, il capitano è uno solo, però io sono un po' più pratica. Ma chi è che pratica? Ha detto la parolaccia Spalletti, povero Spalletti? Secondo me era Verdone. No, Verdone secondo me, non dice vabbè, le parolacce. Ma in quel momento lì. Ma non lì, dice le parolacce. Quel momento non è stato un momento della lucidità, è stato il momento del trionfo, del gesto epico. Tra l'altro la scorsa settimana avevamo parlato di Kobe Bryant che aveva segnato un sacco di punti appena aveva deciso. Dai, che stai continuando a consigliare a Totti di ritirare. No, sì, ma sì, no, non ce la, non ci riesco. Non ci riesco, non io ci riesco. Io invece mi sono chiesto, ma pensa se al contrario avesse sbagliato il rigore. No, cioè, vabbè, al contrario dall'altra parte. Lì allora Spalletti. Però Spalletti. È stato bello perché poi la timeline mi si è anche riempita. C'ho una parte della mia timeline di romanista. Twitter romanista, sì. Ovviamente, che ritwittavano anche la stampa straniera perché è stato proprio un bellissimo gesto epico. Un gesto epico quasi come quello del Milan. Diciamo che la rete non ha apprezzato moltissimo. Se la rete fosse una persona, avrebbe fischiato. Diciamo. Allora, prima di una partita scendono in campo i giocatori del Milan e fanno l'aca. La danza quella dei rugbisti. Sì. Sembra. No, l'aca era abbastanza un'aca. Sembra. Vediamola alla radio. I giocatori com'era però quest'aca. Non erano quelli veri. Se l'aca era quella giusta. me sembra un'aca giusta, però non erano i giocatori del Milan. Non erano i giocatori del Milan, c'entrava la pubblicità, poi il Milan ha pareggiato e quindi disastro in rete, ne hanno presi si sono arrabbiati anche quelli del rugby. No, anche lì sai che è finito in tutti, si sono arrabbiati quelli del rugby e peraltro se si arrabbiano quelli del rugby. No, esatto. Perché poi loro invece sono così carini quelli del rugby di no, solito. No, infatti scherzo. Ma parliamo un po' di politica, voltiamo pagina nello stesso blocco. Attenzione. Parliamo di politica, non delle amministrative, perché guarda, non perché, possiamo. Siamo già in par condicio, stiamo attenti. Parliamo male di tutti, come al solito. Sì, parliamo male di tutti. Allora, voi dovete sapere che sulla 7 praticamente ormai, cioè, la sera c'è Movimento 5 Stelle ovunque. La mattina c'è sempre Bellasio che si picchia con le persone in televisione. Ah, avevi detto che lo mostravi, non lo mostriamo ce per l'abbiamo, fortuna. Volendo ce l'abbiamo, no, volendo ce l'abbiamo. Che allora, praticamente... Lo lascio andare in giro in televisione, litighi con le persone, ma dico io in televisione. Non abbiamo litigato, era il dibattito se troll è un insulto, una critica oppure no, ma lo faremo un'altra volta. Ed era però all'aria che tira, invece qui siamo la sera. La sera, adesso mi ricordo bene, però era, dove era? Piazza Pulita. Piazza Pulita. Pulita di Formigli, c'era Di Battista, Alessandro Di Battista, sì, detto beh, per tutti Dibba. Sì, Dibba, Dibba. Dai, anche questo vabbè, è bello. Beh, ma poi non è il tuo tipo, perché non tutto... Non è tanto il mio tipo, però, infatti, però vabbè... No. Perché non è Manzo, è più bravo ragazzo, no? Sì, è no, più, a me piacciono quelli un po' meno bravi. Ma qua dobbiamo parlare della sua passione per interpretare la lingua italiana un po' a suo modo. Cioè, che cosa ha detto? Tante ne ha dette, non so, agevoliamo, chi è che diceva agevoliamo? Agevoliamo il filmato, non agevoliamo il filmato. Deputato migliore, io non l'ho interrotta, se vogliamo stiamo d'accordo, lei non mi interrompe, io non la interrompo. Stiamo tranquilli. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi dà del tu? No, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo? Sì! Aspetti! Quelle banche scrivono le manovre finanziarie. Però questo è il punto. Però mi faccio finire. Diciamo il totale soddisfamento. A suo modo, diciamo che è una specie di gramlò, il congiuntivo, questo sconosciuto e qualche parola nuova nel vocabolario. Sì, mi dicono Daniele Cinà, l'autore di questo... Di sì, questo montaggio... Te lo ricordi? Posto... Facci lei, batti lei. Batti lei, Fantocci. Ha fatto questa parodia vabbè, ma con no, Fantocci. Ma è che quando si parla in diretta, a volte anche alcuni ascoltatori scrivono ah, però questo conduttore alle 12.57 del tal giorno ha detto, usato... Però sai, quando si parla in diretta, a volte magari... Noi invece li sbagliamo solo fuori dalla diretta, no? Sì. Tipo... Sì, ma perché, no, ma perché imitavamo Dibba. Perché ho seccato un congiuntivo perché... un momento prima di andare in diretta. Perché lo devi dire agli ascoltatori. Stavamo... Ma eravamo no, in ma pubblicità, no. Io ho detto... Allora, si è arrabbiato Enrico Mentana. Credo che possi, no? No, ma perché devi dire queste cose? Stavamo imitando Dibba. Allora, si è arrabbiato Enrico Mentana. Tu sai che quando si arrabbia Mentana si arrabbia davvero. Io sono terrorizzata quando... Anche se non sono lontana, sono terrorizzata quando si arrabbia Mentana. Secondo me Renzi un po' meno, però lui si è arrabbiato con Renzi e ha detto questa cosa qua. Solo due parole sul Premier, che è il Premier, che ha perfettamente ragione nel dire chi ha vinto e chi ha perso perché il risultato è molto chiaro, che però se la deve smettere di dare la colpa alla televisione e ai talk show. Se non ci fosse la televisione a spiegare le ragioni dell'uno, le ragioni dell'altro e anche le sue ragioni, noi non sapremmo e non potremmo come cittadini decidere cosa fare. Siccome la gran parte dei cittadini italiani a quanto pare ha deciso di non andare a votare, lo avrà fatto anche vedendo la televisione e i talk show, non nonostante, con tutto il rispetto per il Presidente del Consiglio, che queste cose se le deve prima o poi mettere in testa. Ha 20 anni meno di chi vi parla, quindi ha tutto il tempo per farlo. Non era così arrabbiato, gliel'ha detto... Poi, secondo me, c'è una sottile cosa sotto. Mm. Perché se Matteo Renzi continua con sto Matteo risponde live su Facebook, sì, Twitter... Cioè, bypassa l'informazione tradizionale. Mi hai rubato le parole di bocca. È una riflessione interessante. Vabbè, il ruolo dell'informazione all'epoca delle dirette disintermediate. La tua parole prossima difficile. Tesi. Sì, che parole difficili abbiamo usato? Mi devo riprendere un attimo. Riprendiamoci. Da questo secondo lessico me, così. C'è il traffico. Onexpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta. YouTube. E il primo blocco del nostro RadioTube. C'era il traffico, eh? Abbiamo indovinato. C'era il traffico, no? Dai, scherziamo. Primo blocco di RadioTube con grandi trionfi, quello di Totti. No, dai, ho deciso, voglio che rimanga. Comunque, voglio che rimanga. Hai cambiato idea nella pubblicità? No, ti ho detto che ci stavo riflettendo. Basta, ho deciso. Perché quando hai detto l'anno prossimo non c'è più, mi è venuto un magone di tristezza. Mi è venuto un magone. Quindi, vabbè, Totti. Win sì. Milan fail Milan, vediamo Dybala, vabbè, simpatico sì. Nella sua grammatica ti piaciucchi anche un po' e quindi po'. Dove vuoi arrivare? Sentiamo. Mentana, non lo so se win o fail. Sai invece chi win, grande win questa settimana? Per due ragioni? Non saprei. Allora, uno perché autore di una trasmissione che è andata alla grandissima e poi ne parliamo. Due perché è diventato l'erba di una del rivista sto... Scherzo, dai! Severnini è un uomo di grande humor. La cattiveria di Bellasio, che se non lo sapeste ha fatto l'1,8%, qualcosa. Perché lui è molto di elevato, è molto, molto... sì. Vabbè, andiamo avanti. Del Rimediala. Allora, non solo perché è stato autore di una trasmissione che è andata benissimo, ma anche perché dobbiamo fargli complimenti, perché il nuovo direttore di una rivista... Benissimo un po' poco, eh. Benissimissimo. Direttore di una rivista storica italiana che si chiama Linus, ce l'abbiamo al telefono. Buonasera Pietro Galeotti. Buonasera ragazzi, buonasera. Per la verità credo dal primo maggio, direttore, cioè dalla festa dei lavoratori. Sì, esattamente. Entri in carica il primo maggio, manca una settimana allora. Il primo maggio il nuovo direttore di Linus, mi sembra che più di così diciamo non ci possa essere. Abbiamo detto tutto. Beh, Linus è una rivista veramente storica italiana. Per me poi ti dico è una settimana abbastanza pazzesca, come dicevi, perché contemporaneamente Rischia Tutto e Linus, che anche se sembrano due mondi e lo sono, così distanti, in realtà poi non è così. Per me sono entrambi una madeleine totale, cioè a 10 anni ero ovviamente uno spettatore ipnotizzato da Rischia Tutto, dalle domande di Mike, ma contemporaneamente ero anche un piccolissimo lettore di Linus che circolava in casa, nelle case dei miei amici, delle persone che frequentavo. Quindi insomma sono due mondi veramente distantissimi, veramente distanti, che però si incrociano improvvisamente al 52esimo anno della mia vita. Ma sono segni del destino, che evidentemente bello, mi piace perché sono le cose dai bambini che tornano, quando tornano nel modo giusto è bello, nel modo giusto. E poi per Lino sono stato veramente molto felice, perché trovo che oggi per tanti motivi, non ultimo il fatto che quello del fumetto mi sembra in questo momento uno dei linguaggi più interessanti e più moderni, più contemporanei che ci siano, anche proprio nel racconto soprattutto nel racconto dell'attualità. Insomma, chi mi ha preceduto, Giovanni Robertini, è stato un ottimo direttore, secondo me sta facendo un ottimo giornale, un'ottima rivista, ed è, per quello che mi riguarda, la volontà è quella di proseguire in quella direzione, cioè andare a scandagliare l'attualità attraverso un linguaggio che è quello dei fumetti. In questo momento parte la sigla del Rischia Tutto. Sento che parte la sigla del Rischia Tutto, è fantastico. E quindi, insomma, questa sarebbe l'idea. Unendo ancora Linus con gli anni 70, e poi ci traghettiamo anche verso Rischia Tutto, perché voglio chiederti qualcosa di questo successo. Negli anni 70 Linus pubblicava, ad esempio, le vignette di Volansky, purtroppo delle vittime di Charlie Hebdo. Quali limiti ti porrai sul raccontare, dissacrare? È sempre difficile parlare di limiti, ma non perché la nostra è una tradizione, la nostra italiana, dico, una tradizione diversa anche nel campo del fumetto rispetto ai maestri francesi, alla loro tradizione, al loro modo proprio di intendere quel tipo di narrazione. Detto questo, io trovo che oggi l'efficacia di Zero Calcare nel raccontare l'attualità sia larghissimamente superiore a quella di molti opinionisti, insomma, questo senza nulla togliere, proprio perché lui va sul campo, vede le cose, le testimonia, le racconta attraverso i disegni. Ora, E non è un caso così isolato. Oggi io credo che ci sia una nuova generazione di intellettuali di raccontatori del presente. Pietro, una bella avventura. Una curiosità: tu questa settimana sei sbarcato su un social network. Noi ci occupiamo spesso di social network. C'entra con la tua nuova sfida, la tua nuova, insomma, identità di direttore di Linus? Guarda, sì, cioè, adesso non dico che l'ho fatta malincuore, perché insomma, no, però è anche vero che la cosa più bella che qualcuno ha detto è stata detta secondo me da Gianni Mura, che una volta nel dedicarmi un libro dice a Pietro l'invisibile, che trovo bellissimo, ma trovo proprio bello, lo trovo proprio bello, cioè mi piace molto questa definizione. Però è anche vero che c'è un momento, c'è un passaggio in cui invece bisogna essere visibili. Allora, quando mi è stato offerto questo incarico, ho pensato che fosse giusto forse accettare anche questa forma contemporanea di comunicazione che è la socialità del web, e quindi ci sono, insomma, non lo so usare, per cui infatti in realtà gliel'hanno aperto, perché ho i miei informatori, ma gliel'hanno e poi è una foto bellissima, veramente velleitaria la mia presenza, però è una però sei sempre sei comunque invisibile, perché delle scarpe, sì, come esatto. Foto profilo, stavo già curiosando, esatto. Allora, esatto. Per chiudere, però ti devo chiedere qualcosa di però questa... adesso posterò una foto con Ludovico Perigà, ecco. Posterò una foto con Ludovico Peregrini. Allora, aspetta un secondo, Pietro, perché vogliamo ritornare un po' a quello che è successo in questi giorni. In realtà rischia tutto. Noi lo vedevamo in bianco e nero, ma era a colori. E da questo istante, naturalmente, vi faccio vedere quali erano i colori autentici di Rischia Tutto. E da questo istante Rischia Tutto è a colori. I colori erano questi. Questo era lo studio di Rischia Tutto. Beh, ecco, io in quel momento lì mi sono abbastanza emozionata, perché tutte le foto, tutte le immagini che avevamo visto ovviamente erano in bianco e nero, non c'erano immagini filmate dello studio a colori. So che siete andati nell'archivio di Sorrisi e Canzoni per trovare delle foto a colori che poi non sono nemmeno state pubblicate, quindi è rimasto il mistero, perché la stessa rivista aveva pubblicato le foto di Fazio nel nuovo studio, ma sempre in bianco e nero. Io in quel momento in cui è apparso il colore, questa sensazione voi non potete averla avuta perché l'avete visto ovviamente in fieri, però io mi sono un po' emozionata. Avete ricreato una bella emozione che è stata ampiamente premiata dagli ascolti, Pietro. Sì, va dato atto a Fabio, come al solito, che insomma, diciamo, conosco da molti anni, quindi so la sua cocciutaggine, che alle volte sembra così, insomma, anche un po' irritante dall'esterno, ma invece poi ha sempre una sua logica. E devo dire che fin dall'inizio la sua parola d'ordine rispetto a questa operazione è stato: se lo rifaccio, lo voglio rifare uguale, proprio, e quella è stata la parola chiave. Quindi c'è stato questo lavoro proprio di archivio, di andare alla ricerca, c'era la memoria ovviamente di Ludovico su tutti gli snodi del programma, siamo andati a ripescare i regolamenti, grazie alla famiglia siamo riusciti a ritrovare versi in vecchi copioni, i vecchi tabelloni, i vecchi le domande, proprio come Mike organizza, cioè è proprio stato fatto un lavoro davvero abbastanza raffinato, insomma, se si passa il termine, di memoria storica. E sì, il risultato poi alla fine secondo me premia anche questa cocciutaggine, perché poi si sente, si vede che c'è qualcosa di strano. È arrivato Fiorello per trovare, insomma, e anche lui, come tutti, ha avuto un attimo, si vede proprio negli occhi quando si vede il bambino goloso di una cosa che conosce, ma che improvvisamente vede in una luce nuova, no? Non lo so, a me, io devo dire, lo stesso effetto, non ricordo stupido, ma insomma mi sembra calzante, quando per la prima volta ho visto una partita, era Sampdoria-Juventus, era credo 72 o 73, e quando sono entrato allo stadio, visto che le squadre erano a colore, mi sono stupito tantissimo. No, vero. Beh, la Juve non tanto, la Juve era in bianco e nero comunque. Però era un bianco e nero più acceso. Sì, diciamo. Più vivace. Più bianco e più nero. Beh, però, verremo a vedere... No, verremo a vederlo quando finalmente Rischia Tutto entrerà a regime. Lo aspettiamo per l'autunno, dunque? Direi di sì, con... sì. diciamo, adesso mancano tutte le, certo, le ufficialità, non ci sono... del caso, ma insomma immagino che questa esperienza proseguirà. Mentre Galeotti direttore dal primo di maggio. Dal primo di maggio direttore di Linus, esatto. Sono molto quindi contenta. Quindi esordisce con un giorno di vacanza. Beh, incredibile. Beh, così è. Ciao Pietro. Grazie a Pietro Galeotti per essere stato con noi. In bocca al lupo allora, presto. Ciao. Ciao ciao. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, una breve pausa, poi avremo ancora un sacco di argomenti, di ospiti, tanti argomenti, a tra poco. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Sono dappertutto. Arrivisti, truffatori, ladri, corrotti. L'Italia sembra perduta. Eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta. Si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30 su Radio 24. YouTube. E caro Daniele, torniamo insieme dopo aver parlato di grandi successi, insuccessi tra politica, sport, e poi abbiamo aperto una bella parentesi anche sulla TV. Sono sì, molto contenta di aver puntata, parlato di questo Rischia sì, Tutto, che rischia mi è piaciuto tutto, tanto. Sì, ma poi Linus, è una puntata molto bella perché si parla di un sacco di temi che mi piacciono. Per esempio, sai qual era la materia in cui io andavo meglio? A scuola? In quale materia andavi bene? Ma proprio di gran lunghi. Sì, dimmi. Proprio in storia. In perché, storia? Perché a me la storia proprio era una cosa che mi piaceva. Come i fumetti, che non leggevo. Era una cosa che proprio mi appassionava. Perché la vedevi come un racconto? Sì, come un racconto, e poi perché, come dire, mi sembrava di essere protagonista di qualcosa anche se lo leggevo, no? E quindi mi immedesimavo moltissimo. Per cui chi fa storia in televisione per me è un eroe. Ah, mi piace molto questa definizione. Non è facile, perché sembra facile. Tutti dicono, ma in Italia la storia va benissimo in televisione. In realtà non è così, bisogna saperla fare, perché sennò sembri solo noioso, invece no. Allora, perché parliamo di questo argomento? Io intanto voglio citare una trasmissione molto bella che è andata in onda ieri sera. Io me la sono registrata perché ovviamente ieri sera tra Rischia Tutto avevo tante cose da tenere d'occhio. Questa la volevo vedere con calma, me la sono rivista oggi con estrema calma perché meritava grande attenzione. Ogni venerdì alle 21.30 va in onda su Rai Storia l'Italia della Repubblica. È un anno importante questo perché stiamo per festeggiare i 70 anni della nascita della Repubblica Italiana. L'Italia della Repubblica è una serie di documentari introdotti da Paolo Mieli con delle bellissime interviste, delle bellissime immagini. Abbiamo sentito parlare in un racconto molto emotivo, molto efficace, il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, che così ha raccontato un episodio molto importante della storia. Napoli fu bersagliata in modo veramente tremendo, un'immagine che dà il senso della drammaticità era che per arrivare in profondità, per arrivare cioè al ricovero, si dovevano scendere attraverso una feritoia 130 scalini. C'era un mio fratello più giovane, più piccolo, io allora avevo 17 anni il più piccolo che era pervaso da tremore, da paura, e c'era un crescendo di ansia. Beh, un racconto davvero emozionante, perché in quel momento io ho sentito scindere la personalità politica, l'uomo politico, lo statista, definitelo come volete, l'intellettuale dall'uomo. Sì, sì, e in tanti momenti veramente ho sentito raccontare l'uomo, ed è proprio quello che dicevi tu, sì. La storia che è fatta dai racconti degli uomini, nei quali ti puoi immedesimare, nei quali insomma puoi cercare di rivivere momenti del passato. Dicevamo, l'Italia della Repubblica, tutti i venerdì alle 21.30 su Rai Storia, e per parlare di questi documentari, ma per parlare anche della storia in televisione, perché come dicevi è qualcosa di molto importante, diamo il benvenuto a RadioTube al direttore di Rai Cultura, Silvia Calandrelli, buonasera. Buonasera a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, già Daniele ha posto un argomento interessante, parlare di storia in televisione, perché si dice, beh, insomma, sono racconti avvincenti, ci sono, soprattutto appunto per il Novecento, ci sono delle bellissime immagini, ma il racconto non è scontato. No, il racconto non è per nulla scontato, è un racconto difficile e complesso, e direi che soprattutto è difficile raccontare la storia in televisione quando arriviamo agli anni che ci riguardano. Lo avete detto bene voi, quest'anno è un anniversario importante per la Repubblica, per l'Italia e per gli italiani, è il 70° dalla fondazione della Repubblica, dalla Costituzione della Repubblica, e quindi non raccontiamo storie lontane, raccontiamo la storia di noi italiane, di noi italiani. La storia, come dire, che ci ha portato oggi ad essere il paese che siamo. Quindi la delicatezza, se posso permettermi, è ancora maggiore, perché la distanza storica, interpretazione quindi dei fatti, è ancora più delicata. E poi ci sono, e questo è un altro elemento importante nella storia contemporanea, ce lo possiamo permettere, la storia e le storie degli italiani e delle italiane. Io mi sono emozionata in particolare in un frammento, perché una delle ricchezze della televisione italiana, della RAI, è quella di avere delle teche che non solo ci raccontano gli avvenimenti della storia con la S maiuscola, appunto da quando la televisione è nata e anche un po' prima, ma si ritrovano nelle pieghe di questi grandi eventi alcuni piccoli racconti. Io mi emoziono sempre guardando queste immagini in bianco e nero. C'è un flash in questa, un'immagine che mi ha particolarmente emozionato. E io stavo inginocchiata a terra. Quando vedo un pezzo di colosso così, dicono che perché non li conoscevo, gli inglesi e gli americani non li avevo mai visti. Mi guardò, perché aveva le giberne e l'elmette e compagnia bene. Disse ok, non posso mai dimenticare. Poi facemmo un grande corteo e andammo a Palazzo Reale. Lì c'erano le avanguardie, c'era Montgomery, un certo generale Hunt. Loro fecero cenno di salire. E io con i fiori, non sapevo come parlavo, non l'avevo mai vista. Uscì anche io al balcone. Disse vi porto questi fiori a nome di Napoli che vi siate benvenuti. E lui mi dice, bacio qui, un bacio. Mi bacio. Montgomery però. Beh, qualcosa di fortissimo. Che linguaggio stupendo poi. Che italiano bellissimo, veramente. Umano. Sì, sì, sì. È bellissimo poter raccontare il Novecento attraverso le immagini della televisione. Immagino che il lavoro con le teche Rai sia affascinantissimo, immenso, perché esatto, il patrimonio è enorme. Direttore, come si può avvicinare un patrimonio così enorme? Beh, si può avvicinare con competenza, con passione e con rispetto, direi, perché il frammento bellissimo di questa donna con questa faccia straordinaria, con questa emozione, è meraviglioso. A me piace dirlo non solo perché sono un direttore donna, ma perché in questa storia, in questa nostra, questo racconto, come voi avete ben detto all'inizio, sono protagoniste le donne. Le vediamo e vediamo l'evoluzione del percorso femminile da 70 anni fa che cominciarono a votare. Queste donne che dopo la liberazione reagiscono così, ma ci sono gli anni 70, ci sono le conquiste femminili, le conquiste sul lavoro, le conquiste per quello che riguarda la famiglia, il percorso della famiglia, e quindi andare alla ricerca delle teche, che sono un patrimonio inesauribile, bisogna farlo con competenza, come dicevamo, con attenzione, e davvero le scoperte, il racconto di noi stessi è fenomenale ed è inesauribile. Rai Storia lavora costantemente naturalmente con questo patrimonio, lo rivisita E la cosa bella è anche il fatto di scoprire pezzi inediti, pezzi che provengono da varie fonti, dai telegiornali, dai reportage dell'epoca, ma vengono davvero e non sono magari mai stati trasmessi da allora. E quindi questo ci consente di dare la voce alle italiane e agli italiani e andare a riscoprire le radici del grande paese che siamo stati, ma anche del grande paese che siamo. Daniele, l'appassionato di storia sono stato zitto perché appunto è bellissimo ascoltare questa cosa e tra l'altro il bene che fa la storia in televisione anche a chi magari è abituato a pensarla soltanto come un soggetto di una materia di studio. Se uno... Prego. Sì, io che non andavo bene in storia a scuola, davvero? Questo che dite è molto vero, molto giusto, ma infatti i nostri telespettatori non sono soltanto appassionati di storia o magari lettori di storia, ma sono telespettatori che ci incontrano magari per caso, si appassionano e poi è un grande racconto, è un enorme racconto dove potersi ritrovare. E poi la storia è uno strumento importante di interpretazione anche della realtà, quindi spesso la passione, come dire, nel rivedere, nel riguardare alcuni momenti della storia è anche un momento per cogliere il rapporto con il presente. Questo è l'altro elemento importante, quindi non è una storia che ci è distante, ma è una storia che ci ripropone delle interpretazioni, dei punti di vista sul presente. Questo e poi è il servizio pubblico per eccellenza, più servizio pubblico di così. Esattamente, direi proprio quello, è il dovere del servizio pubblico, è la passione del servizio pubblico, è il fare storia insieme ai telespettatori, perché c'è una costante crescita. Noi siamo presenti sui social con una presenza forte, la storia è, come dire, in continuo dialogo con i telespettatori, perché ci suggeriscono temi, argomenti, libri, film, c'è un dialogo costante che è molto bello e soprattutto c'è un pubblico molto vasto, non ci sono solo gli intellettuali, gli appassionati, ma c'è davvero un pubblico che magari a scuola non ha potuto studiare, oppure che si è appassionato soltanto attraverso il racconto visivo, perché poi non dimentichiamo, voi siete radio e noi amiamo molto la radio, ma sicuramente nell'utilizzo e nel racconto della storia la presenza, la forza delle immagini è estremamente efficace per arrivare immediatamente, non c'è bisogno magari di tematizzare, basta appunto l'inquadratura della donna nel frammento che voi avete mandato in onda poc'anzi per raccontarci cosa è stata quella vicenda per quel paese, per le persone comuni che l'hanno vissuta. E pensate a questo omaggio bellissimo floreale di questa donna del popolo napoletana che ha sentito il bisogno di fare questo, era un gesto di accoglienza che riassumeva appunto cosa significava per lei. Grazie a Silvia Calandrelli, direttore di Rai Cultura, alla prossima occasione. Grazie, davvero bellissimo. Arrivederci. Che fate. A presto. Grazie a voi, buon ascolto. E buon ascolto del traffico, credo adesso. Sì, buon ascolto del traffico. Poi te ne racconto anch'io una che è un racconto. Oddio, che riguarda suspense. È una cosa poetica che riguarda la mia famiglia. Tra pochissimo. Radio Tube. Codo, ha chiesto scusa a Daniele Bellasio per la parola troll. Di cui sono felice? No. Ho posto una domanda. Ma va a litigare in televisione? No. Cattivo. Ma che bel bagai che era questo. Bel bagai, sì, con la barba, che tempi con l'occhio televisivi che proprio lì si inseriva. Ma qual era il racconto familiare? No, il mio racconto familiare è poetico. Cioè? Allora, dopo la liberazione arrivarono gli americani anche a Vimercate. Perché non potevano lasciare Vimercate in base. No, vabbè, però sai, succedeva. Sì. Però immaginati, Vimercate, per chi non la conosce, per i pochi che non la conoscessero, a pochissimi chilometri da Milano, la mia cittadina. Sì. Ma all'epoca quei pochi chilometri erano un'ora di bicicletta. Esatto, un'ora di bicicletta. Adesso la fai in 10 minuti con la tangenziale. Ma arrivarono gli americani e arrivò un soldato nero. E mia nonna non aveva mai visto delle persone di pelle nera. Arrivò questo soldato nero e mia nonna aveva in braccio mia zia che aveva pochi mesi e questo soldato prese mia zia dalle braccia di mia nonna che era molto non capiva. E allora questo soldato tirò fuori dalla giacca, da una tasca dell'uniforme, una foto di una bimba nera, che era sua figlia che in America, che aveva più o meno la stessa età di mia zia che aveva pochi mesi e le faceva vedere la foto, insomma, che anche lui aveva una bambina così. Ma è una cosa bellissima, ma una cosa scena bellissima. Cinematografica, una dovresti girarla. È una cosa bellissima, sì. E a te l'ha raccontato tua zia? O tua... No, mia nonna, me lo raccontava sempre mia nonna con l'ingenuità di una donna che fino a quell'epoca aveva vissuto in un paesino di campagna in cui non vedeva il mondo. Bellissima bella, scena, brava a raccontare. Ogni tanto raccontale queste cose che ci rimetti in campo. Cinematografica, ti dicevo. Cinematografica, senti, parliamo di cinema. Ma sei diventata quasi mentale. Che non voglio parlare questi... della lite con Emiliano. No. Ma con Vittorio arrabbiato, A troll, ma dato del troll. Ma comunque non c'è il contraddittorio. Non c'è il contraddittorio, quindi andiamo avanti. Adesso devi andare a litigare anche con uno di un altro schieramento politico per par condicio, così ma ti io litigo con chi volete. Milanisti, tutto, con vai. Con tutti, vai. Allora, cinema. Questa settimana David di Donatello. Sì. Adesso io non voglio essere cattiva con la Rai, l'anno scorso li avevamo presi un po' in giro perché non erano proprio stati, ricordi che c'era stato il simpatico, ciao Paolo Ruffini, simpaticissimo, sì, che ha fatto quella gaffe con la Loren. Non me la... Ah sì, quella che non si poteva dire. No, che la Loren l'ha gelato proprio. Sì, vabbè, erano stati un po' così. Invece quest'anno una trasmissione efficacissima di Sky con un inizio fulminante. Esatto. Con un inizio fulminante con Alessandro Cattelan che ha fatto un corto. Ce ne sono stati vari durante la trasmissione televisiva, quello primo mi è piaciuto tantissimo, con i The Jekyll, i nostri amici The Jekyll che citiamo ormai da anni, ma lei è più bravo come attore che come regista. Con Paolo Sorrentino. Allora sentiamo direttamente cosa ha combinato Cattelan con Paolo Sorrentino. Alessandro, oddio, mi sono addormentato. Abbiamo dormito 18 ore. Voi vi siete addormentati, io pensavo. Sti russanna, Paolo! Pensavo forte. Ma io adesso cosa gli dico? Questo sto stai. Gli servirebbe una frase ad effetto. Gli dica il cinema è il soffitto del cuore. Geniale, è perfetta. Maestro, grazie. Vado a vestirmi. Ma non è un po' una figura di merda, no? E che te ne fotte? Non hai visto quello che ho fatto agli Oscar? Vabbè, fantastico, grandissimo Sorrentino che si prende in giro come non l'aveva mai fatto. Anche perché si addormentano guardando il director's cut, cioè la versione lunghissima della Grande Bellezza. Allora, quali sono state le notizie? Che ha vinto il miglior film Perfetti Sconosciuti, che poi ha fatto un altro grande esploit questa settimana. Gigrobo ha preso tutto e Daniele Bellasio si è arrabbiato perché non c'era niente per Checco Zalone. No, mi è sembrato strano, ma non è che è sembrato, io non mi intendo di cinema, non sono competente e tutto il resto, però ammetto mi è sembrato strano. Allora, io non voglio arrogarmi una competenza che ho solo marginalmente, io chiamerei in causa uno dei più grandi esperti di cinema che io conosca, ma anche uno dei più grandi esperti di Checco Zalone che io conosca, che è il professor Gianni Canova. Buonasera professore. Buonasera a tutti. Tutti arrabbiati, anche grande Sorrentino, vedete la grandezza di uno che è anche capace di prendersi in giro e di ironizzare su se stesso nel modo che ci avete appena fatto riascoltare la dice lunga sulla statura di questo nostro vero, cineasta. Verissimo. Sì. Come la commentiamo, professore, questa assenza di Checco Zalone? Ma non mi tirerete mai dentro questa polemica. Perché... Dai, qualcosa devi dirci. No, perché sarebbe come chiedere a una giuria di monaci certosini di votare la miglior pornostar. Cioè, siamo su altri pianeti. È l'Accademia del Cinema Italiano, dove votano soltanto quelli che hanno già vinto precedentemente i David. Quindi fanno parte di una certa idea di cinema nobilissima, che purtroppo, ed è uno dei problemi storici del cinema italiano, non ha mai, da troppi anni, non riesce più a coniugare qualità e quantità. Nel senso che uno dei pregiudizi che ammorbano un po' il nostro cinema è che la quantità non può andare d'accordo con la qualità, cioè se incassi tanto il film è mediocre, se il film è bello non può incassare tanto. Però secondo me il dato che viene fuori dai David di quest'anno è che il cinema italiano sta proprio bene, ricomincia a frequentare i generi in un anno in cui un grande film come Quo Vado ha fatto sfracelli agli incassi al botteghino, dando fiato, ossigeno, linfa, energia, soldi, denaro, risorse a tutto il resto del cinema. Tra l'altro fammi citare il tuo libro Quo Chi, che è edito da Sagome Editore, nel quale sei andato un po' alle radici del successo di Checco Zalone. Sagome di Mercate, ricordiamolo. Ma certo, perché siamo tutti guarda, Bellasio, sei circondato. Tra l'altro abbiamo citato Perfetti Sconosciuti, premiato con la miglior sceneggiatura Altra Ideca, cioè del festival di Robert De Niro, quindi bellissimo segno. Bellissimo, sì, infatti io al di là delle polemiche che poi ci stanno, perché abbiamo bisogno di tutto, insomma, sappiamo come funzionano i media, come funziona il web, per carità, però al di là delle polemicucce, io sottolineo questo, un atto di fiducia per il cinema italiano che mi sembra stia bene, che mi sembra abbia tutte le carte per essere competitivo all'estero, che mi sembra da anni non si presentasse con una batteria di film così belli, così importanti, così consigliabili, senza timore i propri amici. Cioè, andate a vedere non solo Checco Zalone, ma anche i film che erano candidati quest'anno, e non uscirete delusi, insomma, non maledirete chi ve li ha consigliati. Non chiederete gli 8 euro indietro. Ecco. Non chiederete gli 8 euro indietro, e soprattutto questo segno dei generi. Che, sì, infatti. Forse in questo davvero poi un po' anche la lezione del web, l'invito a riprendere, a raccontare storie che siano meno autocontemplative, meno autocelebrative, meno minimali, insomma. Io sono abbastanza contento di questo. Detto questo, resta il fatto che, insomma, prima o poi bisognerà decidersi a sdoganare fino in fondo anche la commedia, che certo la commedia sofisticata di perfetti conosciuti ci sta, ma anche la commedia, il comico più da maschera, non satirica, più da maschera grottesca, insomma, di Checco Zalone, forse bisognerebbe cercare di guardarla con occhi un po' diversi e capire che lì dentro c'è un lavoro sul comico raffinatissimo da grande jazzista quale Checco è, perché la sua è una comicità che deriva dalla musica, dal ritmo. A te è toccato tirare fuori la busta, è stato un bel momento, ero lì che tifavo per te, per Francesco Castelnuovo. Che... Purtroppo Castelnuovo mi ha tirato lì, perché lui l'ha saputo quando eravamo nel backstage e mi ha sussurrato: so chi ha vinto. Ho detto, no! Lui me l'ha detto, no! Siamo entrati, che io lo sapevamo già, e questo mi ha bruciato un attimo, ma l'abbiamo saputo anche noi proprio mentre andava Saviano, mentre andava, quindi noi eravamo lì prima, proprio nel backstage, pronti ad entrare con la hostess, che diceva entrate, e Castelnuovo mi ha tirato la sola, ma privato dell'emozione di scoprire cosa ci fosse nella busta. Beh, però secondo me anche lui voleva condividerlo. Grazie anche per questo backstage, grazie al professor Gianni Canova. Presto, professore, ciao. Tra l'altro, a Checco Zalone bisogna fare i complimenti, anche perché questa settimana ha fatto un video molto carino, sì, in occasione della giornata per gli stati generali della pena detentiva. Gliel'ha richiesto il ministro della giustizia Andrea Orlando, lo trovate su Facebook. Sì, l'ha postato il ministro, che a un certo punto è stato carino Checco, perché ha detto: me l'ha chiesto perché nessuno gli dà retta, e infatti io l'ho dovuto googlare per vedere che faccia aveva, perché non lo vedevo mai parlare no, di questo. No, però è molto carino, perché poi con il codice, bravo Checco, bravo, bravissimo, è vero, bisogna sdoganarlo un po' di più, sono d'accordo, anche in certi ambienti del cinema. Come passa il tempo. Ho urlato tanto. Adesso io so che andrai in regia, no, da Roberta, no, Frisani. No. Anche a casa, no, mi alleno. Vabbè, ti manderemo ancora. Timidezza. Ti manderemo ancora a litigare in no. TV. Allora, fammi fare i ringraziamenti. No. Grazie a Roberta Frisani in regia, sì, grazie a Cristian Goldoni, senza sì, quale non possiamo andare in onda, perché saremo ancor più sconclusionati. A sabato prossimo. Al prossimo sabato.